sui 2-2 mi trovai in campo, nemmeno volevo io andare in campo, mi ci buttarono in campo. Poi 3-2 ci fu l'invasione e mio babbo, mi ricordo che era in tribuna aperta, mi faceva esci, esci, esci, perché ci danno partita persa. Poi ci si nascose, ma tante partite. Io anche nell'ultimo anno, secondo me, la rinascita e l'orgoglio del Montevarchino è tanta roba. Secondo me gli ultimi anni dalla seconda categoria ora non sono facili per tante persone trovarsi in... Io sono andato a vedere Montevarchi, Cesena, Livorno, Como, sono andato in tanti posti, Modena, trovarsi a Saroteo, trovarsi a Castelluccio in mezzo a Campio, sì, non è facile per tutti abbracciare tutta questa cosa. Cioè, voi parlate di montevarchinità, cioè la curva sud secondo me è l'apice della montevarchinità, perché secondo me lì c'è proprio la passione per la città, per tutto, la gente lì veramente dall'anima. Ecco, io personalmente, come ha detto Claudio, cioè io ho dato tanto tempo della mia vita per questo, ma e a me mi è piaciuto perché mi sento bello, capito? Questa persona, vedi, di dare tutto ciò a Montevarchi, cioè non solamente alla curva. E lì in curva io ho trovato i miei migliori amici, lì ho trovato i miei migliori amici, non l'ho trovati fuori, io l'ho trovato in Trento. E lo sai, la curva è un posto di mare, perché io lì ne ho visti passare tanti di persone, ritornare, riandare via, però lì ho trovato veramente delle persone che con me, cioè siamo tutt'una. Quindi la curva come anche un'esperienza di vita. E agganciandomi a quello che dicevi prima, al 1987, quando tu ragazzino tipo 14-15 anni ti trovavi con i tuoi amici probabilmente sotto casa a dare due calci ad un pallone, poi è nato in qualche modo l'amore per Montevarchi, per la squadra di calcio e la passione di seguire tutte le domeniche che vi era possibile a quell'età il Montevarchi in casa oppure fuori. Adesso, oggi, andiamo al presente, saltiamo di 35-40 anni, il mondo è totalmente cambiato, però una magia che si nota a Montevarchi nella propria curva, seppur con i numeri che spettano ad una cittadina comunque piccola, c'è comunque questa passione anche da parte di ragazzi giovani, che ormai sappiamo benissimo che oggi i ragazzi giovani hanno molte più distrazioni rispetto a quelle che avevate voi, ma anche io alla fine siamo coetanei, quando eravamo ragazzi. E quindi secondo me vedere ancora oggi a Montevarchi vivo l'interesse per la squadra di calcio e la passione nel seguirla è un motivo di orgoglio per tutti i montevarchini. Secondo me, io vado molto più indietro, secondo me la passione per l'Aquila è tramandata nelle famiglie, secondo me. Io ti dico, nella mia pelle, ci domandano, dice, ma come mai a Montevarchi c'è questa passione? Perché Montevarchi, calcio a Montevarchi, è vissuto nelle famiglie. Cioè, io te lo dico io, perché mio nonno mi dice, che ha fatto in Montevarchi? A 98 anni ancora, mi domanda ancora, che è tramandato di come io sto facendo con mio figliolo Diego, che lo porta allo stadio tutte le domeniche, e lui ora si è preso anche lui, è tramandato nelle famiglie da nonni, padri, figlioli, tutto. Secondo me è anche un lavoro, diciamo, nostro di curva, di coinvolgere gente e portarla, perché parlare di curva oggi è molto difficile, cioè, perché le differenze fra noi e le grosse curve, noi la domenica, senza dire, noi facciamo del sociale fuori dal normale, noi ci distinguiamo da quelle altre cose delle curve che, cioè, fanno delle leggi per delle situazioni, però prendono tutti. Cioè, noi tutte le domeniche abbiamo gente che, metti caso, non saprebbe nemmeno dove andare la domenica, e facciamo, secondo me, nell'anno che ho passato lì, che sono più di 30 anni, secondo me abbiamo fatto anche di bene a parecchie persone, anche se qualche volta abbiamo sbagliato, logicamente, quello non c'è ombra di dubbio, però secondo me a oggi, dico, a Montevarchi, la curva a Montevarchi è aggregazione, il sociale, siccome questo sociale parecchie persone si riempiono la bocca, il sociale, ma il sociale va fatto con le mani, va fatto veramente, va fatto aggregazione. Noi chi partecipa lì tutte le domeniche fa aggregazione, perché a Montevarchi non c'è dei posti in cui ci può essere una situazione di genere. Poi logicamente ci danno le gambe perché siamo ultras, o sì, ma basta mettere il nome ultras, fa già copertina e tutto. E quindi una lotta, fra virgolette, fra quello che si sente di essere e quello di cui siamo dipinti. Però anni e anni di tifo

uno dei concetti principali è appunto quello di onorare anche la memoria del gruppo, la memoria degli amici scomparsi, e qui a Montevarchi è una cosa che è andata avanti, è sempre successa e che è doveroso sottolineare, perché è un impegno importante e soprattutto è anche dimostrazione di quello che dicevi precedentemente, che attraverso poi il gruppo ultra si crea una seconda famiglia che va ben oltre anche la partita. E fare beneficenza, perché negli ultimi anni abbiamo fatto tanta beneficenza in Chiapas, in Africa, abbiamo mandato tanti soldi, non è che l'ultra si è catalogato con quella persona, è disgraziato, fa casino, invece si torna sempre solo al discorso di prima, è facile dare un'etichetta, guardiamo sotto l'etichetta che c'è, guardiamo per bene. E secondo me, tra l'altro, a Montevarchi più o meno lentamente o meno questa cosa l'hanno capita in tanti. A maggior ragione si ricordava in una delle prime puntate registrate con Andrea Balzimelli, quando ai tempi di Marinos de Rua la Curva Sud faceva controinformazione che poi era verità rispetto a problemi societari che venivano quotidianamente negati, giustificandoli con il fatto che appunto gli ultras erano un gruppo di debosciati e dicevano fesserie, quando in realtà poi la storia, anche da un punto di vista effettivo, ha dato ragione alla curva. Infatti, l'ho detto prima, sono stati degli anni un po' difficili, perché ci sono stati anche dei momenti in cui qualcuno ha preso qualche denuncia e che è scappata fuori dal nulla, insomma, si andava a contestare e venivano, insomma, aizzate le forze dell'ordine, anche metti caso a sopprimere queste proteste, insomma, ci fu anche ci sono stati degli anni un po' difficili, nel seguire ancora di più, perché quando arrivò tutta la cricca dei romani e tutto lì è ancora più difficile, insomma si torna sempre lì al discorso che abbiamo tenuto botta e alla fine i frutti sono arrivati anche grazie poi a quello si voleva noi, ai Montevarchini in società. Romani che, per chi non lo sapesse, erano le persone che in quel momento gestivano le sorti della squadra di calcio, però le sorti, ad esempio, della curva, quelle più o meno non sono mai passate di mano da ormai 25-30 anni, più o meno, eh? Infatti, sinceramente, io nell'ultimo anno mi piacerebbe trovare qualcuno, cioè io lo fo parecchia passione, però sinceramente non è facile, anche con famiglia e tutto, cioè io sono fortunato che alla fine mio figliolo Diego mi segue tutte le domeniche, viene con me, però insomma se mio figlio e mia moglie, metti caso, erano due cose separate, io, cioè la Valentina, mia moglie, ha sposato tutto il pacchetto, ma lei veniva tutte le domeniche in trasferta con me, poi alla fine è cambiata la vita arrivando il figliolo, sì, ma insomma lei sapeva che cosa prendeva, capito? Cioè io sono fortunato anche in quello, perché come ho detto prima è un porto di mare, gente è transitata, perché finché eri in soli bene, poi arrivava la signorina, metti caso, diceva la domenica, no, la domenica si va fuori e te invece, e io sono stato fortunato, logicamente sono fortunato anche furbo, perché ho trovato la donna giusta, che se non la cambiavo di sicuro. I più non la trovano la donna giusta, quindi va bene. Comunque, allora, detto questo, evidentemente tu sei testimone diretto in prima persona di 25, minimo 30 campionati di calcio in curva. Allora, la domanda che mi viene in mente è: prima ci hai raccontato che San Donà è stata l'emozione più forte anche per te, come avevano già detto altri, per quanto riguarda il risultato sportivo, ma la domenica più emozionante per quanto riguarda l'essere tifoso, l'essere stato la persona che ha comandato la Curva Sud in quella domenica? Sinceramente a me tutte le domeniche sono sempre uguali, logicamente avendo la Sud piena è tanta roba, diciamo così, ma mi sono adeguato anche nell'ultimo anno a averne uno spicchio, mezza o 40, 50, quando c'era meno, no, ma insomma, però secondo me con il Livorno in casa, quando si era circondati dai livornesi, che fu quella domenica famosa che fu cambiato l'arbitro all'ultimo secondo perché avevano cercato di corrompere la terna arbitrale, e si vinse 1-0 con Gordi, Bernardo Corradi, insomma c'è anche gravitato dei bei giocatori, diciamo, a Montevarchi, e noi non è che si fa delle borie, noi si lasciano da una parte, perché tanto è come quelli del Porto di Mare, passano un curva, anche i giocatori passano, l'anno dopo ci sono più, ma noi siamo sempre lì davanti, lì a tutte le domeniche, sotto l'acqua, sotto il gelo e tutto. Per noi la Sud è tanta roba, ma non lo dico per me, c'è tanta altra gente, lo dirò, come lo pensano come me. Io invece ti volevo domandare di una trasferta specifica. Era il 2002, la Fiorentina, squadra gloriosa, toscana, conosciutissima, era retrocessa per una serie di ragioni in realtà in Serie C2, incontrava il Montevarchi che all'incirca, se non vado errato, era il novembre di quell'anno, doveva recarsi in trasferta all'Artemio Franchi. Il Montevarchi probabilmente era ultimo in classifica, la Fiorentina era prima, seppur scricchiolava un pochino perché i tifosi, se non ricordo male, si aspettavano dei risultati diversi da quell'avvio di campionato, e comunque vinsero. Cosa ti ricordi di quella partita? Perché il finale, il risultato finale fu il clamoroso 1-0, gol di Cellini dopo una partita fondamentalmente di catenaccio da parte del Montevarchi, risolta nell'unica azione probabilmente d'attacco di tutto il secondo tempo, se non di tutta la partita. L'epilogo fu che si retrocesse l'anno, e la domenica fu speciale, perché insomma andare a vincere all'Artemio Franchi, credo, insomma, una cittadina come Montevarchi, che è un decimo o di più anche di Firenze, per noi fu, secondo me, si fu anche fortunati che si passò in un periodo di loro problemi. Avevano, infatti, mi sembra Havasin, che era allenatore della Fiorentina, fu mandato via. Insomma, noi sebbe una, diciamo, la fortuna, per modo di dire, perché fu l'anno poi si retrocesse, si vinse lì. Io mi ricordo che la gente a fine partita si era sotto il formaggino, erano increduli, cantavano. Io mi ricordo, c'ho gente di Firenze che mi rammenta sempre della domenica, che noi si vinse, c'erano della gente di là che ci guardava, che le conoscevo, metti caso andavano via la Fiorentina, gente di Firenze le conoscevano e venivi lì, insomma, ma erano a morte con la società e tutto, perché insomma erano un momento un po' di stallo. Poi alla fine fu, gli cambiò, perché mi ricordo che furono ripescati anche un'altra volta, fecero un doppio salto per la Serie B, fecero, sì, per andare in Serie A, fecero il doppio salto. Insomma, fu una domenica, secondo me, epocale, perché insieme, secondo me, San Donà, Baraccalugo, Empoli o la Massese, questa domenica qui, c'è stato delle domeniche che hanno segnato anche noi, insomma. Poi logicamente gente più anziana diranno anche lo spareggio a Firenze e la Pistoiese, io non l'ho vissuto sfortunatamente, però beh, e chiaramente 2002, quello che per molti a Montevarchi e forse anche un po' fuori, che Montevarchi è stato il derby con la Firenze Verona. Ma nella tua lunga militanza in curva di derby ne avrei visti tanti, anche perché non solo con i paesetti proprio intorno, ma in generale con le squadre toscane. Sono state partite di campanile, perché alla fine la Toscana è terra di campanile, e quindi sfidarsi, incontrarsi contro le squadre toscane tira comunque aria di derby. La partita, secondo me, che mi rimane in mente, e fu l'88 ai Brilliperi o la Rarese. Lì inizia a capire cosa voleva dire il derby. Loro logicamente venivano a Montevarchi e vinsero il campionato, noi ci toccò andare a fare lo spareggio a Empoli e la Massese. Logicamente il campanilismo in Toscana è il sale del calcio, che cioè è bello. Logicamente noi in Toscana solamente un'amicizia con l'Empolesi, con Empoli, e siamo orgogliosi di tutto ciò. Poi nell'esterno Carrara, Massa, abbiamo avuto delle discussioni a Ponzacco, ti dico, per dirti, capito, Ponzacco, Prato, che è una delle tante dove abbiamo, insomma, avuto tante discussioni. Prato, avendo questa età, cioè, noi non abbiamo vissuto dei derby di cui altri parlano, cioè, noi abbiamo vissuto i derby con l'Arezzo. Per noi il derby principale è con l'Arezzo, anche se loro dicono e noi non siamo al loro livello, però insomma spesso e volentieri se lo ricordano il livello e stanno anche abbastanza zitti. E il bello del calcio, perché cioè andare, quando si andava a Carrara, si arrivava a Carrara e saliva, insomma, l'adrenalina saliva addosso, è una cosa che ti dà il più, che nell'ultimo anno logicamente l'adrenalina addosso, si andava allo stadio a vedere salute, tu l'avevi, perché metti a se il prossimo anno ci mettono un gironcino dove c'è Viareggio, Massese, tutti quell'altri, incomincia la domenica a sentire un po' di adrenalina dei bracci, vedi, c'è una tifoseria, vedo che cosa, insomma c'è un po' di sfottò, è un pochino più, un po' più accesa, perché il derby in se stesso in Toscana è una cosa secondo me basilare, perché secondo me il calcio in Toscana è tanta roba di fronte agli altri posti, secondo me, perché non soltanto, come dice Montevarchi, che è tramandata di padre e figlio, ma anche negli altri posti è perché il campanile vuole che la città deve essere più forte di quell'altra, e allora spesso persone si prendono, si accollano anche alla squadra. Si vive come una responsabilità rispetto alla città, in un certo senso, anche perché comunque le radici del campanilismo sono probabilmente, da un punto di vista storico, molto più indietro rispetto anche alla nascita di gioco di pallone o qualcosa di simile. In ogni modo, però, dicevamo, rispetto a tutti i vari derby, avevi iniziato facendo riferimento a uno in particolare, qual è che ti ricordi meglio? La partita in casa, la resa in casa, era una specie di spareggio per noi, perché dovevamo vincere, perché poi alla fine vincemmo lo spareggio a Empoli contro la Massesi, che lì c'era 2000 noi e 10.000 Massesi. Mi ricordo che quando facevi massa era tutto lo stadio, però alla fine si vinse i rigori con il palo di Carfagnini. Io ero il mio babbo, la mia mamma e la mia zia, anche lì avevo 15 anni, logicamente, perché io ho passato un periodo in cui, cioè, la mia passione doveva essere fatta sfogare, perché io gli rompevo tanto le scatole, per non dire che cos'altro. Allora, o una domenica mi mandavano il nonno dietro, o una domenica il babbo e la mamma, perché io ho un ricordo di Pontedera, che c'era 4-500 con la 112 dell'Oto Bianchi, crema, io dietro con la bandiera fuori dal finestrino, con i finestrini lì prima di parte, con il babbo e la mia mamma, poi un altro Arezzo con mio zio, cioè in quei tempi lì che ero un ragazzetto, non si fidavano a mandarmi da solo, mi mandavano insieme ai parenti. Mi mandavano, io ho iniziato dall'anni a fine anni 80 con un gruppettino, poi su ho ricambiato gruppo, poi alla fine eravamo tanti, ci siamo uniti tutti insieme, e lì ci fu una scintilla che ci unì tanti insieme, e ora siamo diventati fratelli, insomma, l'uno e l'altro. Quello che ci racconti è un mondo che ormai non c'è più e che probabilmente molti nostri ascoltatori odierni nemmeno si immaginano, se non attraverso i racconti. Appunto, è di racconti e di queste cose che noi cerchiamo di fare il nostro piacere, il nostro sangue, fra virgolette. E oggi, che sembra tutto così lontano, il fatto di stringere amicizia reale con persone addirittura di città che sono a centinaia di chilometri di distanza da dove vivi, oggi che è molto facile essere amico di una persona che è dall'altra parte del mondo, perché è tutto virtuale, quindi i ragazzi oggi hanno tanti amici ma sono tutti finti. Prima magari i ragazzi ne avevano pochi, però erano veri, e adesso invece ne hanno tanti, fanno a gara i like agli amici su Facebook magari, però sono tutti amici finti. Questa cosa qua, nei giovani che frequentano la curva, ce la riconosci, oppure ti sembra di vedere un bagliore di luce che ancora possa tenere in vita ancora per tanti anni in avanti questa tradizione ormai che è a Montevarchi, che è la curva sud? Diciamo che quando la vivevo io, insomma, fine anni 80, primi anni 90, proprio in pieno, è cambiato parecchie cose, mi hai detto te, cioè il mondo, solamente si lasciava le chiavi attaccate alla porta fuori, ora è cambiato tutto il mondo, capito? Secondo me c'è una voglia ancora di aggregare insieme. Logicamente ora è tutto fittizio, è tutto nel fumo, però ancora lì ci vedo ancora, perché anche domenica, ti fo l'esempio, ritorno al discorso di prima, facciamo un pranzo per gli amici scomparsi, siamo 150, se era fittizio e tutto nel fumo, una cosa del genere non diceva, non nasceva, cioè nessuno partecipava, invece c'è una buona partecipazione, anche secondo me ci può essere un futuro ancora nella sud, io lo spero, se no che ho fatto fino ad ora? Benissimo, abbiamo ripercorso quindi decenni di storia di tifo montevarchino e quindi anche di montevarchinità. Ringraziamo quindi Riccardo Volpi per essere stato con noi questa sera, ringrazio anche alla regia Fratelli Manzina e ringrazio anche il mio collega di viaggio Fumino. Grazie a te Julian, grazie ai Fratelli Manzina per la preziosissima regia, grazie a Riccardo Volpi per la preziosissima testimonianza sulla Montevarchinità che ci ha portato stasera. Ringraziamo ovviamente Radio Big World che ci manda in onda e gli amici di Radio Valdarno. Arrivederci a tutti e grazie a voi, è stato un piacere. Viva la Curva Sud! Mi dici se dà la vita che cosa? Grazie. No, vabbè, però nel senso... in regia ricordati un regista, Castellano e Pipo. Chi? Castellano e Pipo. Yeah. Il regista top per Androni. Castellano e Pipo? Pipolo. In regia anche stasera, anzi soprattutto stasera, Isidoro e Pipolo, accanto a me Fumino. Com'è che no, Isidoro, porco Castellano, eh! Ragazzi, Isidoro è lungo, Isidoro e Pipolo, come dire uno, non si vede che cazzo è. Fammelo rifare. Posso dire che dall'anno 80 ora hanno cambiato sostanze, però più o meno ci sono anche... Però gli strulli sono sempre uguali. Sì, è ok. Campanili, terra di campanile, okay. Senza andare a lasciamo fare formine. Tanto cucini è anzi, magari è più bello se fa un discorso dove cucini non vengono nemmeno. Sì, si parla di derby, ma cucini non vengono nemmeno. È bello, magari. Trova una chiusura, Davide. Io ho finito la sambuca, mi dispiace.